questo volume, ha voluto essere, diciamo, ecco, soprattutto un atto di umanità, un segno tangibile di sensibilità da parte di poeti e scrittori che hanno voluto dedicare un caro pensiero a un animale. Noi saremo sempre a difesa dei nostri amici a quattro zampe. Io non mi dilungo oltre, passo la parola al professor Eugen Galasso che illustrerà. Io ringrazio il presidente dell'Associazione Scrittori Franco Latino che ha curato il volume appunto di cui si diceva, lo mostro anch'io, e che appunto a distanza di 10 anni ripropone un tema che oggi è ancora più cogente, direi, nella sua attualità. Il rapporto con gli animali, con tutti gli animali, che tra l'altro da un punto di vista proprio di, diciamo, anche ecologico, no? Voi sapete da oikos greco che vuol dire la casa, nel senso che la natura è e rimane la casa per le persone, per uomini e donne. E nonostante, diciamo, vantaggi e anche svantaggi della tecnica, in qualche modo la natura rimane, oserei dire, per fortuna, no? E il rapporto con evidentemente quella componente del mondo naturale che ci è più vicino, ossia gli animali. Inutile dire animal, no? Quindi chi si muove e ha comunque delle sensazioni, questo è l'animale, per cui la vecchia definizione aristotelica, l'uomo sarebbe zoon politikon, ossia appunto animale sociale, animale politico, si può tradurre in diversi modi, preferisco animale sociale perché politico spesso ha una connotazione troppo, diciamo, schierata in un certo modo e non tutti noi siamo così schierati, quindi ecco, possiamo tenere il sociale. Tuttavia la socialità degli animali è provata. Voi sapete che, adesso, senza dover fare degli esempi, ogni animale è solidale con la propria specie. Usciva alla fine dell'Ottocento un volume di uno studioso russo che è noto anche altrimenti, Piotr Kropotkin, L'aide mutuelle, l'aiuto reciproco, perché appunto gli animali, se in difficoltà, se vedono un loro simile in difficoltà, si soccorrono, cosa che purtroppo le persone fanno, però non sempre, ecco, diciamo così. Il volume Gli animali nella nostra vita, simbolo, mito, realtà. Io così brevemente nell'introduzione citavo i tre tori lacaniani, cioè le tre dimensioni. Evidentemente gli animali come realtà, quelli con cui viviamo, quelli che osserviamo, qui ci sono nel volume molti animali non domestici, se volete non addomesticati, e qui appunto torna anche un problema ecologico, nel senso che spesso si sente certe specie animali sono iper rappresentate, quindi bisognerebbe, come si può dire, abbassare il numero di nascite in certe specie animali. È provato appunto proprio da un punto di vista di una ecologia, di una di una ecobiologia, come meglio diremmo, di una biologia appunto aperta al rapporto uomo-natura, uomo-animale in particolare, che invece spesso ci sono specie che tendono a sparire, tendono a morire, diciamo, e qui il problema invece si pone. Anche animali che non ci piacerebbero e non ci piacciono moltissimo, il che non vuol dire per esempio che dobbiamo essere invasi da ratti, no, io lo dice chi ha un'esperienza semantica negli anni 80 a Parigi, mi ricordo nella stazione, in una delle stazioni del metrò, a un certo punto arriva un ratto di considerevoli dimensioni, io naturalmente impaurito faccio un salto all'indietro, abbastanza anche imprudente, ma in certi momenti la paura, come si dice, fa 90, e anche lì circolavano così leggende metropolitane, ratti di dimensioni umane o ancora più grandi dell'uomo, invece erano leggende metropolitane, non era vero per il Giappone, di cui si diceva appunto che questo fosse in atto, e non è vero in altri casi. Ora, molto brevemente, prima di venire ai racconti, alle poesie che poi sentirete dalla viva voce della lettrice, l'attrice appunto Laura Andrian, e qui naturalmente poi assieme cercheremo anche di entrare un po' in specifico, ma voi sapete che gli animali sono onnipresenti nella letteratura e nella poesia di tutti i tempi. Faccio alcuni esempi che sono, penso, noti a tutti. Allora, pensiamo al cane. Il cane Argo, per esempio, è colui che alla fine dell'Odissea, nell'ultima parte dell'Odissea, riconosce Ulisse, praticamente prima delle cosiddette persone umane. Però poi c'è il cane dalle molte teste, che è Cerbero, sappiamo insomma dalla mitologia pagana, che poi viene anche recepita e sussunta nello schema per esempio dantesco, no? Cerbero è nell'inferno dantesco, e però ci sono anche altre figure animali, come sapete, in quello che si chiama l'antinferno, cioè l'inizio, l'incipit propriamente detto della Divina Commedia, il primo canto della prima cantica, cioè dell'inferno. Ma altri esempi, ecco, per esempio il famoso Albatros, no? Anche in italiano Albatro o Albatro, no? Non so come sia, Albatro credo anche in italiano, l'accento, Albatros di Baudelaire, dove addirittura il poeta si paragona a questo animale, no? Quindi ha un rapporto, diciamo, oppure Thea Panther, no? Di Rainer Maria Rilke, questo grande poeta austriaco di cultura, però praghese di nascita, e il volume, scusate, la poesia è stata scritta 1902, dice testualmente in Jardin de Plantes, nel giardino delle piante, oggi diremmo nell'orto botanico, no? Anche in francese botanique, però insomma, più anticamente, all'epoca in cui Rilke era il curatore, il segretario dello scultore Rodin. Rodin, chi si interessa all'arte, è uno scultore, diciamo, uno dei capisaldi della scultura nel passaggio tra 800 e 900. E in Rilke, come anche in Baudelaire, siamo nella dimensione del simbolo, sono dei cosiddetti simbolisti, quindi la pantera imprigionata, tra virgolette, nello zoologico botanico, perché appunto Jardin des Plantes sì, ma anche Jardin des Animaux, no? Quindi zoologico, tutta una riflessione sul poeta che vede, il poeta osservatore che vede, e l'animale che viene visto, non solo viene, diciamo, percepito, no? Quindi tutta la riflessione tra interno ed esterno, e comunque, ecco, la pantera che diventa un simbolo di libertà che viene limitata, che viene frustrata, ma tende sempre a uscire fuori. C'è poi un testo assolutamente formidabile e unico, anche questo, che è di Melville, credo che sia noto a tutti anche questo, il Moby Dick. Moby Dick è tutto, nel senso appunto la polisemia del simbolo, cioè i più significati del simbolo, evidentemente dal Moloch, dal mostro marino biblico, di biblica memoria, laicizzato però in Melville, alla dimensione dell'inconscio, cioè qui un volumaccio, se mi è consentito, su Freud, di un filosofo notevole che però in questo caso ha fatto più un'operazione di marketing, quel volume che vedete su Freud, non lo consiglio perché denigra il personaggio in modo abbastanza banale. E però ecco il perturbante, das Unbehagen, diceva Freud, tutto questo. E però il contraltare, il nemico di Moby Dick è questo capitano Ahab, che a suo modo è anche un fanatico, potremmo dire. Quindi le cose sono come sempre un po' più complesse di quanto sembrino di primo acchito. Quindi bisogna, soprattutto appunto in una letteratura di tipo simbolista, e comunque quando l'animale viene ad assurgere a simbolo, bisogna sempre leggerne le diverse sfaccettature. Io ho citato alcuni esempi, ma potrebbe anche essere una sorta di prefigurazione del mostro tecnologico. In Melville c'è questa preoccupazione, come c'è anche nei due autori che ho citato, Baudelaire perché era ossessionato dalla metropoli, e Rainer Maria Rilke perché era così una persona di estrema modernità, però era anche spaventato da determinati diciamo dalla dark side, no? dalla parte oscura che la modernità e la tecnologia hanno in sé, tratti che ritroviamo anche in questo volume. Io volevo chiudere semplicemente ricordando dove anche l'animale assurge a addirittura a allegoria più che a simbolo, quindi ha anche un significato preciso, cioè a dire nel mondo delle fiabe, che è un mondo estremamente grande, variegato, importantissimo, perché insomma le fiabe hanno un valore didattico, hanno quella che si chiama la morale, talora troppo presente, qualcuno lo rimproverava a Esopo, ma diciamo alcune cose credo che siano ancora valide nella, diciamo, in tutta questa problematica. Adesso Esopo magari non cito volentieri formiche e cicale, perché se ne ha fatto una testa così con le più o meno con le regole europee, con le regolamentazioni italiane che più o meno sono state e vengono tuttora adottate in seguito alla crisi, che peraltro è reale. Ma per esempio, se pensiamo a Fedro, e mi limito così a pochissimi esempi, il famoso vulpes et uva, no? La volpe che non raggiunge l'uva perché è troppo alta e quindi non ci arriva proprio, non riesce a spiccare un salto fino all'uva per mangiarsela, e poi dice nondum matura est, non è ancora matura, nolo acerbam sumere, non voglio assumermela, cioè prenderla per mangiarla essendo acerba, no? È chiaro che qui è un simbolo che vale sempre, insomma, inutile dire per che cosa, no? Ci sono esempi a bizzeffe, e quindi è inutile poi tediarvi su questo. Ma pensiamo anche al famoso Cébrion o Rot Crépien, no? Che nella versione francese di Perrault, nella versione tedesca romantica, quindi molto diversa da quella precedente di Perrault, che era venata di razionalismo cartesiano, di illuminismo, tutto quello che volete, dove appunto il lupo è, nonostante, ecco, le differenze appunto tra la versione illuminista di Perrault e quella romantica dei fratelli Grimm, che erano anche degli straordinari filologi, come peraltro lo era Perrault, che scrive in un eccelso francese, come i Grimm sono dei veri pionieri, diciamo, della lingua tedesca dell'Ottocento, che però si protende anche in avanti. Il lupo non è solo l'elemento malvaso, ma a un livello psicodinamico, che pure dobbiamo tenere in considerazione, il lupo è la crescita di Cappuccetto Rosso, cioè Cappuccetto Rosso, adesso non voglio scendere in dettagli, ma diciamo ha la sua maturazione anche come donna incipiente confrontandosi col lupo, quindi è l'altra parte, se volete, di noi, è il Mr. Hyde in noi, ma è anche quello che fatalmente abbiamo in noi. E qui chiudo ricordando appunto Vladimir Propp, il grande autore della morfologia della fiaba, che ci dimostra come le fiabe, al netto di differenze totali dal punto di vista dei personaggi, delle professioni, naturalmente delle fiabe stesse, al netto della differenza di ambiente naturale, però presentano più o meno sempre le stesse situazioni. Se noi, io così, se qualcuno ha interesse, poi, no? Portato fiabe norvegesi, irlandesi e africane, per dire delle realtà assolutamente diverse, troverete elementi comuni e molti, perché la fiaba, come Propp ha dimostrato, hanno sempre qualcosa in comune. Quindi qui abbiamo, ecco, venendo alle poesie, e ci sono alcuni testi in prosa, io direi prosa poetica, nel volume che Franco Latino ha curato e a cui ho dato un modesto apporto. Diciamo troverete anche qui delle situazioni diverse, animali diversi, e al dettaglio però dei testi vorrei passare dopo che avrete veramente assaporato, attraverso una voce molto più gradevole della mia, i testi in questione, perché questo è poi de qua il sagì, no? di cui si tratta, no? Il de cuius famoso, ecco. Luana Angermeyer, il mio amico Zazà. Abitavo vicino al lago di Caldaro, in provincia di Bolzano. Ogni giorno dovevo percorrere 6 km a piedi per recarmi a scuola. Frequentavo la seconda elementare. Purtroppo, abitando distante dal paese, non avevo amiche. Mi sentivo molto sola. Ero figlia unica e nelle vicinanze non c'era nessuno con cui giocare. Tutto cambiò un giorno, quando, ritornando da scuola, entrando in casa mi venne incontro un cucciolo che sembrava un gomitolo di lana, grassottello e peloso, un musetto simpatico con due vispi occhietti neri. Gridai per la felicità, lo sollevai in braccio e lo strinsi a me. Fu un'emozione piacevole sentire quel corpicino caldo e morbido. Lo accarezzai. Lui con la sua linguetta rosea mi leccò le mani. Cercava affetto e a modo suo me lo dimostrava. Mio padre, guardandomi, sorrideva. Aveva capito che avevo bisogno di compagnia. Carezzandomi i capelli mi chiese: «Sei contenta?» «Tanto, papà», gli risposi. «Bene, come lo vuoi chiamare? Scegli tu un nome». Ci pensai un istante e dissi: «Lo chiamerò Zazà». Io e quel cagnolino diventammo inseparabili. Quando ritornavo da scuola mi correva incontro festoso. Non ero più triste, avevo un amico che mi aspettava a casa. Facevamo delle lunghe corse nel prato fino all'uscello. Io correvo veloce, ma arrivava sempre prima lui. Ricordo un giorno che avevo lasciato un mio quaderno sulla poltrona ed ero uscita con papà. Al mio ritorno lo trovai in tanti pezzetti sparsi lungo il corridoio. Lo aveva distrutto, come a rimproverarmi di non averlo portato con me. Trascorsero gli anni. Zazà non correva più così veloce come una volta. Era diventato lento. Lo guardavo con dolcezza, ricordando l'infanzia trascorsa insieme, la felicità che mi aveva recato. Il mio caro amico stava invecchiando, ma il suo sguardo affettuoso era rimasto sempre quello. Un giorno, rientrando a casa, stranamente non mi venne incontro come faceva di solito. Lo cercai, lo trovai accovacciato sul suo tappetino. Lo chiamai, alzò la testa e mi guardò tristemente. Mi avvicinai e lo accarezzai. Con gli occhi tristi mi leccò la mano. Mi aveva atteso per dirmi addio. Reclinò il capo e morì. Piansi per la sua perdita. Era stato un grande amico, fedele e sincero. Con la sua compagnia aveva colmato il vuoto della solitudine della mia infanzia. Celestina Avanzini, a Ledi. È perdersi con l'animale in un'infanzia appena ritrovata, una bracchetta d'ambra di un anno e mezzo, mentre corre in tondo annusando rasoterra e fremente gioie a me inafferrabili. Ledi insegue una passione estrema e io con lei, ruzzolando sulle foglie, rincorrendo oggetti immaginari, estraendo legni dallo stagno. Siamo felici insieme. Il bosco di querce è avvolto in strisce di nebbia che vorrei annodare. Il cielo mi trattiene, mentre la cagna si affianca, compresa in una gerarchia d'amore che torna a tramutarsi in gioco. Fiammetta bada, pepe nero. Con sguardo lucido e intenso scrutavi il mondo, a volte colorato di dolore, intorno a me. Ti accostavi silenzioso, discreto e consolante. Sentivo nitida la comprensione nei tuoi occhi e nei piccoli gesti. Accettavi senza condizioni i miei silenzi e il mio distacco quando la vita infieriva sulla mia anima. Avrei voluto ripagarti di tanta fedeltà, ma non ci sono riuscita mai. E tu, nonostante, mi hai donato totale dedizione, attendendo ogni volta il mio ritorno per accogliermi festoso. Non sono riuscita a farti capire quanto ricambiavo il tuo amore silenzioso prima che tu sparissi dalla mia vita. E ora, tu, mio dolcissimo bassottino nero, rivivi in me con il tuo nome amaro ogni volta che pronuncio la parola Pepe. Giorgina Busca Gernetti, nei tuoi occhi. Nei tuoi occhi, la luce dell'affetto, leale confidenza tra esseri che mai si tradiranno, splendeva, scintillava nel passato, nei giorni della lieta giovinezza del tuo corpo armonioso. Si sta spegnendo quella luce fioca nei tuoi occhi socchiusi, per il crudele morbo che divora le tue forze, la vita, come il calore fonde ormai la cera d'un lume che si spegne lentamente. La tua luce risplende nella memoria, affranta, ma tenace a trattenere la tua figura nobile, che rivive nell'animo di chi ti ha amato in tanti luminosi anni di baci e tenere carezze. Silvano De Marchi, il gabbiano. Non sa dove posarsi l'inquieto gabbiano di notte che segue la schiumosa scia della nave e non sa perché la segue, come l'uomo il suo destino. Forse è per quelle note di swing che escono di sottocoperta, dove ballano le belle signore e il negro al pianoforte eleva il suo canto di nostalgia. E forse è perché nella pupilla nera gli è rimasto il giovane mozzo che con mano amica gli porgeva grani di mais. Forse è l'amore di terre lontane, ancora ignoti ai suoi obliqui voli. Non sa dove posarsi l'inquieto gabbiano, fatto a immagine del cuore. Pietro Di Spazio, il passero demaniale. Lo squillo incantato del passero sulla grondaia demaniale non ama le pallide sembianze della curiosità impiegatizia e nell'azzurro vola via. Invano fu teso malvagio invito di false chicche al festoso pennuto. Invano dalle finestre aperte sui liberi cieli si affacciò la gioia di numeri sguardi. Cristina Ferrari, rondini. Si alzano in volo le rondini, riempiono il cielo roseo d'estate con i loro gridi, esplosione di vita, ampi giri, canti della mia anima. Ed anch'io vorrei volare in cieli luminosi, in trasparenze chiare, dove raccogliere polvere di stelle da racchiudere come in uno scrigno nel cuore, da donare alla vita, da offrire all'amore. Eugen Galasso, Pifani, quando gli animali parlano. Pifani, quando gli animali parlano. La ninfa Egeria, diceva il buon studioso, da sempre compulsatore di testi, probabilmente anche non troppo originale, sarebbe l'antenata della Befana, in quanto l'inventrice della calza sarebbe lei stessa, cosa che non gli risultava in realtà, non essendo la calza indumento romano, in specie romano antico, epoca di Numa Pompilio, di cui la ninfa sarebbe stata ispiratrice, consigliera, amante. Chissà com'è intesa la calza, pensava. Comunque non se ne fa parola né in Ovidio né nel testo anonimo sul rapporto tra Numa e la ninfa Egeria, dunque. Ma sapeva, e ne era edotto essendosene occupato, che la Befana, Pifani, diceva, da buon vecchiarello infantile, anzi bambino mai cresciuto se non negli studi, che la Befana, la Vecia, è un mito antico, con il rogo della stessa, che simboleggia il vecchio anno e l'inverno, certo, che accennano ad andarsene. Lui, del resto, cristiano, magari sentimentale, non poteva non essere d'accordo per una sintesi tra cristianesimo e paganesimo, tesi da lui sostenuta anni prima, tra l'altro. Numa Pompilio, tra l'altro, che con la sua opera da re di Roma viene ricordato quale philosophus da quel personaggio che stimava e ricordava sempre come mentore suo, Flavius Claudius Iulianus, che il volgo, influenzato dal fanatismo apologetico protocristiano, chiama l'apostata. Pifani, che bella cosa, che bei ricordi, che bella tradizione contro l'orrore pseudo neopagano, contro il clericalismo bigotto integrista, ma anche la dodicesima notte da Natale. Vedi anche la commedia shakespeariana così intitolata. Nelle notti, non solo quella della vigilia di Natale, il Heiligabend, quando tutti gli animali, dice la leggenda, parlano. Diremo meglio, parlano in modo comprensibile, in quanto in realtà parlano sempre, in maniera diversa e certo più simpatica di quella umana. Notte di pace e amore, come recita la traduzione spagnola, Noche de Paz, Noche de Amor, appunto, dell'incipit di stile Nacht, Silent Night, con bue, asinello, ma anche ovejas, pecore, agnelli, eccetera. E lo si sa, i pastori sono assolutamente endidiaci con essi ed esse. Piangeva come un vitellino il nigno gatto, gattino, gatto bambino, come lo chiamavano, lo studioso, autore di libri, saggi e poesie, ripensando alle epifanie passate e forse future. Ma poi prese a sé tutti gli animaletti di peluche che aveva, centinaia, e carezzandoli iniziò a parlare con loro e ad ascoltarli. La sua voce no, ma la loro era veramente una melodia, anzi meglio, una sinfonia ineguagliabile, celestiale. Andrea Larcher, La civetta. Sull'orma di una gronda spezzata, un'assenza avverte l'eco di un volo sospeso, un labirinto di note, penne nel dipinto chiarore. L'ombra ammortizzata sui rami stacca l'unghia dal ramo di un cipresso. Dismemora l'autunno. Un globo di veglie taciturne verso notti insondate. Franco Latino, Io e te in amore. Io e te in amore come due grilli talpa, come un gattuccio io, di traverso. Io e te in amore come due raganelle, seduti noi come due castori. Poi mi darai lo schiaffo sonore di tigre mortificata. Onisco. Sono l'onisco emarginato dal mare. Cerco frescura tra la terra e il sasso sotto un torrido sole. Vi prego, non schiacciatemi. Voglia di vivere. Cade ancora di schiena. Agita le ali. Si rialza. Cade. Il corpo non vinto. Un vento aiuta ad essere leggero. L'ape ferita porta alla casa comune la goccia di miele. Franco Maria Maggi, a Max. Quanti istanti felici abbiamo letto nei tuoi grandi occhi di gatto graffiante, altero e nobile nell'aspetto, sempre cacciatore, amico nostro mai sottomesso alla umana volontà. Max, eri colmo di dolcezze profonde, ma anche di violenti uragani di libertà. A lungo accanto a noi sei vissuto, ti abbiamo amato con cuore di poeta. Nei tuoi occhi gialloneri, ambrati come un sonetto medievale, per noi parole di tenerezza intensa. Come non poteva dentro di te esserci qualcosa di simile all'anima? Per quasi 20 anni, adorato Max, hai sopportato le voluttà nostre. Pazzi e ciarlieri ti abbiamo trattato alla pari, e tu, serio e unghiuto, impellicciato in nero, fino all'estremo addio, hai risposto di amarci come ama un Dio. Dolce, amabile, fiero, indomito Max, sappia la terra, senza alcun eco arcano e tempestoso, ridarti una vita nuova in altri cieli, senza dolorosi commiati o cimiteri, e che tu possa reincarnarti in un eroe. Vuole fare una pausetta? D'accordo. Eventualmente, ecco, si sente o forse non... Aspetta, per la... non so bene come... Prego, prego. Grazie. Ecco, allora, intanto è, come si dice, gradito dovere ringraziare l'attrice che ha letto molto bene anche le parti appunto così che potrebbero invece aver dato in altri casi adito a difficoltà. Il primo testo, quello in prosa, ma appunto è prosa poetica, di Luana Angermeyer, che vediamo qui presente, pittrice, scrittrice, autrice di un volume di racconti che abbiamo presentato, mi sembra, 2 anni fa, e più recentemente, circa un anno fa, di un romanzo che potremmo definire giallo, poliziesco, come volete, ma io relativizzerei, è un giallo profondamente antropizzato, anche in quel caso profondamente legato alle esperienze umane, ai sentimenti, ai pensieri, più che al plot, diciamo, alla storia, con effetti di suspense e altro che ci sono, ma sono meno importanti rispetto, direi, alla vicenda. Ecco, qui si qui vediamo appunto ancora una volta la scrittrice a tutto tondo, quindi non tanto interessata, diciamo, al giallo o al così, a quello che potrebbe sconcertare, ma a quanto invece è profondamente umano, no? e quindi appunto il mio amico Zazà è direi uno straordinario esempio in questo caso, un ottimo esempio appunto. Naturalmente, ecco, qui è un tema anche abusato, il pittore, l'artista, scrittore, quantomeno insomma da Michelangelo Buonarroti in poi abbiamo grandi esempi, porta nella scrittura anche la sua capacità di vedere, di osservare, di dipingere o se è scultore di scolpire, quindi nel caso che facevo prima, Michelangelo, voi sapete, grande scultore che però poi deve dipingere da non pittore, da scultore e poeta, deve dipingere e lo fa in un modo direi straordinario, la Cappella Sistina, quindi insomma, ecco. La capacità che il pittore, in questo caso la pittrice, ha di vedere le cose e di renderle in immagini, in figure e colori, ma anche con le parole, con diciamo i lemmi che poi evidentemente si uniscono e formano frasi, sintagmi. Celestina Vanzini, anche qui la capacità di vedere e di sentire, particolare poi da una persona che svolge la professione d'aiuto, la professione di psicanalista e psicoterapeuta, e sa vedere anche le proprie ombre, no? Disegni le tue ombre. Qui inutile che io mi dilunghi, ma essendo complessivamente junghiano anch'io, ecco l'ombra che ci portiamo sempre con noi e che ci condiziona, è importante saperla cogliere e vedere. E la Celestina, la dottoressa Vanzini, lo fa ottimamente, no? Idem per Fiammetta Bada, studiosa di letteratura, studiosa di teatro, anche di teatro locale, no? Le sacre rappresentazioni, ma non solo, con questo appunto Pepe Nero, questa figura che risalta proprio ai nostri occhi se leggiamo, e quindi: e ora tu, mio dolcissimo bassottino nero, rivivi in me con il tuo nome amaro ogni volta che pronuncio la parola Pepe. Quindi le tracce mnestiche che il poeta coglie, no? Le tracce del ricordo, no? Per esemplificare, ma penso sia un'espressione nota a tutti. Questa poetessa di Piacenza che abita a Gallarate, latinista, Giorgina Busca Gernetti, io trovo anche qui che sia una composizione eccelsa, Nei tuoi occhi, e non a caso il boxer che aveva lo chiamava Artù, anche lei innamorata di questo ciclo artusiano che rende la grandezza del Medioevo, no? Quando si dice la media aetas, quindi il Medioevo è un secolo di barbarie, di così di decadenza culturale, si commette un grande errore, perché il Medioevo ci ha regalato, per fare solo due esempi, Dante e Walter von der Vogelweide, ma ci ha dato anche straordinari esempi dal punto di vista artistico, dal punto di vista filosofico, eccetera. E anche la scienza, pur coi parametri dell'epoca, era estremamente attenta. E qui, anche qui, proprio la sintonia nella poesia della Busca Giarnetti tra persona e un animale che ha una sensibilità estrema, no? Quindi la sintonia veramente anche e direi la sinergia che si crea tra persona e animale. La poesia, io citavo prima Melville e siamo in questo ambiente, no? Il gabbiano del professor De Marchi, anche qui l'inquieto gabbiano, vedete anche la capacità di tratteggiare con pochissimi lemmi una situazione direi esistenziale, che è quella del poeta ed è quella del gabbiano osservato, evidentemente un viaggio in mare, per mare. Forse è per quelle note di swing che escono di sotto coperta e poi l'osservazione appunto dei passeggeri, che è un'osservazione dove ballano le belle signore e il negro al pianoforte leva il suo canto di nostalgia, no? Anche qui con estrema finezza, perché voi sapete il blues, ma anche la musica religiosa di impronta afroamericana è negata al ricordo nostalgico, no? Dal greco nostos e algein, cioè la sofferenza e del ritorno, legata al ritorno, questa è la nostalgia, cioè una straordinaria opera filmica di quel cineasta e scrittore morto purtroppo, russo dissidente, che era Andrei Tarkovsky, penso che alcuni l'abbiano visto. Io, ecco, rimango molto legato e sicuramente anche Silvano. Cristina Ferrari, Rondini, ecco qui vedete, abbiamo già avuto il gabbiano e abbiamo questi animali, i volatili, che sono in qualche modo l'esemplificazione della libertà. Vorrei anch'io, e anch'io vorrei volare in cieli luminosi, in trasparenze chiare. Quindi l'elemento dell'escape, l'escapismo, la fuga, no? La ricerca di altro. Per quanto mi riguarda, ecco così. È un brano umoristico, auto, forse ironico, se ci sono riuscito, non so, non sta a me dirlo. E però il finale è malinconico, no? Andrea Lach, la civetta, ecco qui, anche qui un animale in qualche modo atipico, notturno. Voi sapete che alla civetta si lega tutto un immaginario magico ed esoterico, quindi anche un qualcosa di abbastanza inquietante, ma il poeta riesce a darcelo in una forma, io direi, straordinaria, con alcuni versi. Ecco, l'ombra ammortizzata sui rami stacca l'unghia dal ramo di un cipresso, dismemora l'autunno. Questo dismemora l'autunno proprio lemmaticamente e metricamente è straordinario. È un effetto che, da un punto di vista tecnico, è un effetto di allitterazione, ma diciamo al di là di questo, proprio la capacità straordinaria di renderlo per verba, no? Attraverso le parole. Franco Latino, qui naturalmente è un po' imbarazzante, ma lo faccio lo stesso, parlare molto bene di un amico. E vedete, ecco, come due grilli talpa, come un gattuccio. Qui fra l'altro mi ha insegnato qualcosa, io non sapevo che il gattuccio fosse un piccolo squalo, o quantomeno non me ne ricordavo. E anche qui vedete, no? È un effetto di anafora, ma l'anafora sarebbe a inizio verso, e c'è come grilli talpa e gattuccio. Qui c'è da un punto di vista appunto non di uguaglianza o di totale analogia nella prima sillaba, ma c'è complessivamente grilli, talpa, gattuccio, torna questo effetto allitterante. Unisco anche qui, l'unisco, ecco, è il, diciamo, l'esemplificazione del più piccolo crostaceo, e quindi anche vi prego non schiacciatemi gli ultimi due versi, che è un invito evidentemente di carattere ecobiologico, ma anche di carattere complessivo, no? Chi non grida troppo rischia di essere sempre oppresso e schiacciato, no? Vi ricordate il grande Dostoevskij, umiliati e offesi. E qui poi Franco Maria Maggi, scusate ma è impossibile non commuoversi, Franco Maria Maggi è stato con Franco Latino, poi con la mia pochezza, con Silvano De Marchi ed altri, è stato veramente, intanto è stato un fondatore dell'Associazione Scrittori, ha dato uno straordinario contributo quale poeta, quale scrittore, anche però soprattutto anche sacrificando spesso i propri testi a favore veramente della causa della poesia, della letteratura in Trentino Alto Adige, ma in tutto il mondo, direi, potenzialmente in tutto il mondo. Il ricordo di Franco Maria Maggi è indelebile, sono ormai quasi purtroppo 3 anni che ci manca, e diciamo mi manca, scusate. Ecco, così, superando l'impasse che era inevitabile, anche qui questo gatto Max, che è proprio l'esempio della libertà, l'esemplificazione della libertà. Chi ha conosciuto Franco Maria sa che questa era la sua somma aspirazione, ed era veramente in lui. Giacomo Manzoni di Chiosca. Il gatto è il re della foresta, lui comanda. A chi non ubbidisce con le buone, mostra le zanne e un ruggito manda. L'avete già capito, è lui, il leone. I felini son bestie assai regali, anche se non han scettri né corone. E l'aquila è un felino con le ali, vinto solo in bellezza dal pavone. Ma il gatto, di tutti gli animali, domestici o selvaggi, è il più sornione. Sta stravaccato in casa sul sofà, come se fosse lui il padrone. Ed è un delitto di lesa maestà se lo disturbi e vuoi mandarlo via, perché il divano è di sua proprietà. E se gli dici questa è casa mia, ti guarda con un'aria un po' stupita, offeso per cotanta villania, e sembra dirti falla un po' finita, cosa ti credi tu di comandare? Io sono il re qua dentro da una vita, lasciami in pace, non mi disturbare. Franca Valenti, Milù. Lui lo baciò 2 volte sulla fronte, lo cullava dolcemente, avvolto nella sua coperta. Il cuoricino batteva forte, tremava fino alla testa. Lui continuava a cullarlo, piccolo essere morente. Per tutta la notte era stato male, girava intorno, malgrado le gocce. Piccolo indifeso. La schiena si era inarcata, era ormai senza pelo. Era all'ombra di se stesso. Lascialo sul pianerottolo, Alla sera lui mi ha telefonato. Milù non c'è più. Marina Lambertini, La talpa ed io. Avete mai fatto le vacanze con una talpa? Io sì, con una talpa caparbia che ha deciso di venire ad abitare nel mio giardinetto. Ha fatto tutto da sola. Non riteneva di dovermi chiedere il permesso ed un bel giorno ha traslocato nella mia proprietà, decidendo di fare a mezzo. Io con i miei fiori sul prato, lei con le sue gallerie sotto. Non l'ha minimamente spaventata la convivenza e, da solitaria per destino, è diventata socievole per forza di volontà. Cosa l'abbia ispirata non so, ma una cosa è certa: mi ha accettata con benevolenza, anche se la maggior parte della giornata la passo camminando sulla sua testa. È una talpa tollerante, o forse le sono simpatica. Fatto sta che si è sistemata tra le radici della mia ortensia e passeggia allegramente sotto il mio prato d'erba all'inglese. Ogni pomeriggio riassetta casa con diligenza. Anzi, a dire il vero, credo che proprio oggi abbia deciso di ristrutturare l'appartamento, perché dal tremolare dell'erba e dal lievitare della terra noto un allargamento di proprietà. Ora mi sorge un dubbio. Non è che le sono simpatica perché si è accorta che siamo colleghe? Lei è un buon costruttore sottoterra, mentre io me la cavavo bene a fare altrettanto di sopra? Forse ha un sesto senso e mi ha riconosciuta. Ma quando? Certo è che quando, per verificare il lavoro fatto, spunta all'aperto, non si preoccupa minimamente se per caso incontra i miei piedi. E senza scomporsi si rituffa nei suoi buchi per nulla seccata. Figurarsi se ha paura. Per lei io sono una brava persona. Poco importa se ho il prato con le vene varicose. Anzi, posso vantare una rarità. Tutti gli altri sono lisci e monotoni. È un po' che lo osservo e devo dire, ad onor del vero, che lavora veramente bene, razionalmente direi. Scava una galleria, poi si allarga e forma una stanza, svolta di 90 gradi e rifà un altro corridoio, poi un'altra stanza e così di seguito. Al momento attuale proprietaria di 4 vani e 5 corridoi, più entrata principale e uscita di servizio. Ma sono certa che si allargherà ancora. Deve essere una talpa esigente, con spiccata mania di grandezza, perché lavora tutti i giorni, domenica compresa. Ed ha anche un forte senso del risparmio. Non va nemmeno a fare la spesa altrove. Si accontenta, per così dire, delle radici delle mie piante. Io i fiori come decoro, lei le radici per pranzo. Tutto a mezzo, come ho già detto, e se per caso diluvia, io a preoccuparmi dei boccioli rotti dalla pioggia e delle radici affioranti, lei sotto a dormire. Problemi? Nessuno. La manutenzione del prato è solo a carico mio, mentre lei, imperterrita, al primo sole, ripristinerà i suoi appartamenti, riaccaparrandosi la sua mezza proprietà. Ma io così spero che... Pardon, scusate. La sequenza era diversa. Intanto... Prego. No, diciamo, venendo agli ultimi testi, io direi quello di appunto Chiosca, quello di Manzoni, Chiosca, che veramente con questa, come potremmo dire, morfologia del gatto, paragonato appunto ad altri animali, è un esempio di poesia umoristica, ma anche di poesia, diciamo, quasi teatrale, no? Nel senso che ci immaginiamo i personaggi e così voi sapete di quelle rappresentazioni più o meno mimiche, pantomimiche che c'erano già nell'antichità con gli attori travestiti, vestiti diciamo da animali, no? Che oltretutto è un vecchio sogno, ma è anche una aspirazione in qualche modo umana, no? Il divenire animali. Mi ricordo sempre, e lo cito fin troppo spesso, perché io sono legato estremamente a due pensatori, diciamo, del tardo Novecento, Gilles Deleuze e Félix Guattari, che accentuano questo elemento, no? Guattari era uno psicanalista e Deleuze un ermeneuta, un filosofo. Io penso assieme a Michel Foucault siano diciamo i più straordinari interpreti della modernità e della postmodernità, questo divenire animali con tutto quello che comporta evidentemente, no? E qui sta anche a voi, diciamo, non solo a me naturalmente interpretare, perché ognuno lo legge con parametri, secondo parametri propri. Questo testo di Marina Lambertini, io segnalo solo, ecco, il prato d'erba all'inglese e altre notazioni che nel testo ci sono, poteva venire solo da un architetto. È un architetto e è una scrittrice, ma ha una formazione da architetto, quindi naturalmente c'è anche la terne, no? C'è anche la tecnica e serve sempre. Mi ricorderò sempre, essendo anche formatore in disegno onirico, un gruppo di cui non conoscevo, diciamo, la formazione dei singoli componenti. A un certo punto mi trovo di fronte a un disegno estremamente dettagliato, al che chiedo, mi permetto di chiedere, dico: ma qui forse c'è anche una formazione pregressa? E la, non so, signora mi dice: sono architetto. Allora ho detto touché, insomma, no? Nel senso che era chiara e come è chiara qui, però non pesa, capite? Cioè anche la componente tecnica viene sussunta, viene inclusa, diciamo, in un orizzonte che è da scrittrice, da poetessa, anche qui con uno straordinario senso sense of humor, proprio, no? La capacità umoristica e anche auto umoristica, diciamo, oltre che autoironica, con ecco un'accentuazione giustamente qui appunto cita Franco Latino, perché è sua la nota: oltre agli animali domestici o anche non domestici, comunque più consueti, l'agnello, il cavallo, il cane, il gatto, cita però anche coccodrillo, giaguaro, aquila, lupo, eccetera. Ecco, tra gli eccetera c'è questa talpa. La talpa, credo che molti si ricordino la frase di Shakespeare citata anche da Karl Marx, vedo un amico che sa molto di questo, e la famosa frase in italiano sarebbe: hai lavorato bene, brava talpa, no? E che in Shakespeare o anche mutatis mutandis, diciamo, in Marx ha un certo senso, quindi l'erosione continua che prepara una situazione nuova o esistenziale o storica. Ecco, quindi la talpa è sempre un qualcosa che sotterraneamente lavora e prepara altro, che può essere il futuro o una situazione comunque diversa. E qui però la talpa viene, come potremmo dire, quasi antropizzata, quindi c'è il divenire animale per le persone umane, ma c'è anche il divenire in qualche modo umani per gli animali. E voi sapete che su questo, a parte gli esempi che citavo delle fiabe, tutte le fiabe in qualche modo, quelle più protrettiche, didattiche, diciamo, che hanno un significato morale diretto, spesso fastidioso, nota qualche esegeta, qualche studioso, per esempio in Esopo, meno in La Fontaine, meno tutto sommato anche nei Grimm, nonostante una certa morale protestante romantica, però ecco, non fastidiosa, sicuramente meno negli esempi illuministici, La Fontaine, Perrault, Lessing, anche naturalmente molto importante, per dire proprio Lessing è proprio uno dei canoni, direi, dell'illuminismo, del razionalismo, però non stolto ed estremistico in qualche modo, anzi estremamente attento, no? Pensate a quell'opera straordinaria che è Nathan Drese, che in italiano non so mai come si traduca, Nathan il saggio, il sapiente, ma insomma è a metà, no? Tra sapienza e saggezza. Io non identifico i due termini, però credo che ci sia indubbiamente anche un'analogia, in qualche modo, una reciproca attrazione, se non altro, tra i due termini. Ecco, qui veramente Lambertini ha esistenzializzato la situazione, quindi la talpa che minaccia, ma al tempo stesso arricchisce appunto una situazione, come dicevo all'inizio, ecologica. E qui credo che veramente a 10 anni di distanza, posso ripetere la frase shakespeariana, ha lavorato molto bene la talpa, mi consente il franco-latino, perché appunto antologizzando. E fra l'altro, ecco, una nota che magari considererete da pedante, ma così non credo che sia: l'estrema cura, l'estrema accuratezza nelle note biografiche, perché guardate che è un lavoro certosino, ma è anche un lavoro impegnativo, nel senso di dover sceverare nella biografia di ognuno di noi, diciamo, c'è da togliere e da accentuare, cioè certi elementi sono veramente rilevanti, altri sono meno importanti e si possono tranquillamente tralasciare. E non è, guardate, non è cosa facile, no? Posso assicurarlo, anzi. Beh, sono anni di lavoro, di attività, sì, anche con Franco Maria Maggi. Abbiamo lavorato tantissimo. Moltissimo, e certo. Voglio ricordare che noi della Latin rappresentiamo, cioè la nostra attività è quasi quarantennale in provincia di Bolzano. Abbiamo prodotto più di 60 volumi ormai. Sì. Perciò è frutto di anni di lavoro e di conoscenza. Fra l'altro, ecco, segnalo adiuvandum, come si dice, rispetto a quanto diceva Franco, l'opera di Franco Latino, ma anche appunto di Franco Maria Maggi, prosegue nel senso che le uniche riviste culturali, morto purtroppo per il decesso del lettore, l'amico Nolet, circa mezzo anno fa, diciamo, è scomparso il cristallo e rimangono solo 2 riviste culturali, anche posso dirlo, al di là dei miei contributi, ma di notevole rilievo, quali appunto la LACMAC e la Gazzetta di Bolzano, che sono in qualche modo legate, o sono comunque danno sempre una specularità quasi reciproca. Per tornare a bomba rispetto a quanto si diceva all'inizio, sono quasi endiadiche, no? Cioè sono due cose in una, direi, e rimane appunto questo con notevoli sforzi anche, posso dire, dal punto di vista proprio tecnico produttivo, perché questo è un aspetto da non sottovalutare. Comunque io ringrazio, molto buono, ma anche lui ne ha un'esperienza, perché oltre ad essere direttore responsabile, anche il professor Galasso contribuisce attivamente alla produzione anche della rivista e anche alla nostra attività in provincia di Bolzano. Noi abbiamo fatto conoscere negli anni tantissimi autori locali, li abbiamo fatto conoscere in Italia, in Italia, anche perché le nostre due riviste, cioè la Gazzetta di Bolzano e la LACMAC, sono molto diffuse in tutte le regioni italiane, oltre a essere nelle nostre biblioteche locali. E comunque il nostro impegno, sempre, finché c'è l'entusiasmo e l'amore, si va avanti. Grazie.